l'altro giorno sono andato in bagno a scuola, ma la carta non c'era. L'altro giorno la cacca scendeva, ma la carta non c'era. E se sei stufo di questo mondo di merda, e non puoi neanche più cagare in pace, cosa devi fare? Mi dicono di studiare. La carta i geni da grati, rubala, rubala, rubala, rubala, wow. Se vuoi la carta i geni da grati, rubala, rubala, rubala, rubala, wow. Che se vuoi la carta i geni da grati, la devi rubare. In questo mondo di merda la devi rubare.